Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. In una giornata in cui le borse sono mediamente positive, bene Parigi più 1,60%, Francoforte più 1,50%, Londra più 0,80%, Milano cresce meno, lo 0,37% di rialzo, grazie soprattutto a due titoli, ST Microelectronics più 6,16% e Mediaset che recupera un 4,5% dopo mesi in cui ha toccato anche minimi di borsa, 1,35€, Luxottica bene più 2,40€, Exor più 2,20€, Eni più 2%, negativa invece Snamrete Gas, meno 4,65%, Monte dei Paschi meno 2,70€, A2A meno 2,15€, Impregilo meno 1,70%. Di cosa parleremo oggi, ossia cosa ci riserva la cronaca di questa giornata economico-finanziaria? Beh, in primo luogo ci occuperemo di quello che sta emergendo da un lato dall'inchiesta della procura milanese sulla vendita di strumenti derivati e quindi i cosiddetti prodotti definiti spesso tossici al comune di Milano. C'è una richiesta molto importante del PM Robledo che coinvolge quattro banche d'affari enormi, mi riferisco infatti alle banche che si chiamano Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e DEPFA Bank, una sanzione di 1,5 milioni di euro a ogni banca, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e la confisca di 72 milioni di euro. Queste le richieste avanzate appunto dal procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, al processo sulla truffa sui derivati del comune di Milano. Ne parliamo in apertura, comunque vi dico subito che il PM sostiene che il comune di Milano sia stato raggirato e irretito da queste banche, quindi raggirato e irretito su quello che fosse il rischio presente negli strumenti derivati e il loro anche funzionamento. Dunque, e questo è il primo tema. Riguarderà però anche il tema di cosa sta capitando nel mondo anglosassone, perché ieri il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, della Banca Centrale Americana, ha detto la vicenda LIBOR, quella che ha travolto i vertici di Barclays, il fatto che le banche si fossero messe tra virgolette a taroccare quello che è il tasso di interesse, che poi serve anche per esempio in Italia a calcolare quello che è il tasso di usura. Non c'è nessuna banca italiana coinvolta, ma come scrive oggi Donato Masciandaro sulla prima pagina del Sole 24 Ore, negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna, ma soprattutto negli Stati Uniti, che spesso ci danno lezioni di morale, di etica, di come si gestisce la finanza e l'economia, beh, una vicenda come questa viene trattata nelle pagine interne dei giornali, anche dallo stesso Wall Street Journal, che spesso è così critico con noi, non parliamo del Financial Times, sempre pronti a dare lezioni. Però se fosse capitata in Italia una cosa del genere, cioè che si fosse scoperto che una banca enorme ha taroccato i tassi di interesse, voglio dire, sarebbe stata, passatemi il termine, scuoiata viva, giustamente anche. E nel mondo anglosassone invece c'è un po' di compiacenza, di questo parleremo, e parleremo infine anche di quanto emerge oggi sui giornali da un'esclusiva del TG5, ossia il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, al tempo governatore della Banca d'Italia, ascoltato dal PM di Trani, che sta indagando sulla vicenda dell'agenzia di rating e che ha messo sotto accusa Standard & Poor's e Moody's, ha evidenziato nel corso dell'interrogatorio, che è di più di un anno fa, ha detto, insomma, nel gennaio del 2011 per la precisione, ha affermato Mario Draghi: c'è un conflitto di interessi tra gli analisti di questa agenzia di rating e i soci di questa agenzia di rating. Ha detto infatti Draghi: le società che proponevano prodotti strutturati soggetti poi al giudizio delle agenzie, prodotti quindi complessi e rischiosi, erano società da cui dipendevano le stesse agenzie, cioè sono le società che poi sono le azioniste di queste agenzie. Voi capite che insomma che tu giudichi me, che sono il tuo azionista, diventa sempre difficile. Irretito cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente, da questo punto di vista, anche deviato nel giudizio complessivo il Comune di Milano per quello che era la, e quindi da un lato illuso, dall'altro raggirato in quello che era l'effettivo rischio presente in questi strumenti. Nella seconda ora del programma invece ci occuperemo della regione Sicilia, perché come avete letto sui giornali noi ce ne occupiamo da mesi dei costi assurdi della regione Sicilia. Beh, insomma, si è arrivati alla redazione, ma alla resa dei conti su questo, e c'è una conferenza stampa che dovrebbe essere iniziata del governatore, ancora per poco, della regione Sicilia, Raffaele Lombardo. Infine il Vaticano, inteso come IOR e quindi è come Stato autonomo che ha una sua gestione del segreto bancario. Oggi l'organismo che a livello europeo deve dare la valutazione sui sistemi antiriciclaggio, sapete che il Vaticano è finito nella lista prima nera e poi grigia, perché fornisce poche informazioni sui sistemi antiriciclaggio. Oggi è arrivato il rapporto del Moneyval e dice che la divisione del Consiglio d'Europa che valuta i sistemi di antiriciclaggio dà un voto positivo su 9 delle 16 raccomandazioni espresse al Vaticano. Mancano all'appello altri 7 punti, quindi è un giudizio in chiaroscuro. Dice va bene su alcune cose, ma deve rafforzare la città del Vaticano, la Santa Sede, la vigilanza antiriciclaggio, deve trovare, è fortemente raccomandato, dice, che lo IOR, che è l'Istituto per le Opere di Religione, sia sottoposto nel prossimo futuro alla vigilanza prudenziale di un supervisore indipendente. Vuol dire che non può essere il Vaticano a giudicare se stesso. E infine aggiunge anche, ci raccomandiamo con il Vaticano di prendere in seria considerazione l'introduzione di leggi che individuino chi può avere diritto ad avere un conto corrente allo IOR e chi no, perché in questo momento, sotto traccia si legge, non è chiaro perché alcuni abbiano un conto corrente lì e in base a quali caratteristiche. Allora, questi i temi della giornata. 349-238-6666 per i vostri sms. Giornata ricca e densa, partiamo subito con le notizie in breve. Per quello che riguarda le materie prime, siamo stabili sia su oro che su petrolio. $88 al barile a New York l'oro, $1578 l'once il petrolio. Per quello che riguarda invece lo sciopero in tema di energia e di petrolio dei gestori di carburante, il garante dei scioperi è pronto a incontrare le associazioni di categoria dei gestori e prende atto della loro disponibilità a rimodulare le date della stensione. Non è infatti possibile scioperare nei giorni del 4 e 5 agosto, quindi in quel weekend. L'America, anche il segretario del tesoro americano, quindi il ministro dell'economia americano Timothy Geithner, riconosce che la ripresa dell'economia è più lenta di quanto non si attendesse qualche mese fa e che i rischi che arrivano dall'Europa sono molto forti. Di rischi forti della zona euro ha parlato anche il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, di nuovo in audizione alla Commissione Servizi Finanziari della Camera dei Deputati americana. Sentiamo questo passaggio dell'intervento di Bernanke. The risks to economic growth have increased. I rischi per la crescita economica sono aumentati e individuo essenzialmente due tipi di minacce. La prima risiede nella crisi dei conti pubblici e del sistema bancario della zona euro, la seconda sta nella situazione dei nostri conti pubblici. All'inizio dell'anno le criticità sui conti pubblici della zona euro si erano un po' allentate in seguito alle misure straordinarie prese dalle autorità europee e dalla BCE. Nonostante questo, le tensioni nell'area euro si sono di nuovo intensificate come conseguenza delle incertezze politiche in Grecia, della tenuta delle finanze in Spagna e del sistema bancario sia spagnolo che della zona euro. Le autorità europee hanno risposto annunciando una serie di misure, compresa la ricapitalizzazione di alcune banche spagnole e un percorso verso l'unione bancaria. Nonostante questi annunci, il sistema finanziario ed economico della zona euro rimane sotto un livello significativo di stress che si allarga al resto del mondo, inclusi gli Stati Uniti. On financial and economic conditions in the rest of the world, including the United States. E quindi questo è interessante notare che nel giudizio del presidente della Banca Centrale Americana non venga citata l'Italia, parla di Grecia, Spagna e i rischi bancari della zona euro, almeno qualcosa, E il Fondo Monetario continua a ribadire che l'area euro è in una fase critica, che sarà modesta la ripresa nel 2013, e lo ringraziamo per l'ovvietà. Mentre non è ovvio, c'è un passaggio però nel rapporto del Fondo Monetario, dice che nonostante le azioni intraprese e i mercati finanziari restano sotto grande pressione, sollevando dubbi sulla stessa e sopravvivenza dell'area euro. Allora, io sapete come la penso quando il Fondo Monetario o altri organismi se ne escono con queste cose che generano solo incertezza e anche panico, senza spiegare che cosa si può fare, quali rimedi da prendere. Un bel gufo accaldato, non ancora in vacanza, per il Fondo Monetario, perché dire sollevano dubbi sulla stessa sopravvivenza dell'area euro significa creare altro che incertezza, rischiare di creare la fuga di capitali. Un gufo estivo, vai. Ed è un gufo che annuncia colui il quale viene chiamato Dr. Doom, quindi l'economista che gufa più di tanti altri, però ci ha sempre azzeccato per ora, speriamo che si sbagli adesso, lo dico veramente di cuore. Mi riferisco a Nuriel Rubini, quello che è diventato molto celebre per aver previsto per primo la crisi del 2008, che fu sbeffeggiato in un famoso convegno a Davos dall'allora ministro dell'economia Tremonti, che disse: ma Rubini, in realtà poi Rubini ebbe ragione e in quel caso Tremonti torto. Ha ribadito oggi in un'intervista alla Reuters che nel 2013 si abbatterà sull'economia mondiale. Adesso io spero che chi è in macchina non guidi con una mano sola, soprattutto i maschi. Si abbatterà una tempesta perfetta. Sentiamo Rubini. Next year is the time where the can becomes too big to kick it down. Then we have il prossimo anno può essere il momento in cui i problemi diventano troppo grandi e difficili per essere risolti e potrebbe scatenarsi una tempesta perfetta. Questo potrebbe succedere. Penso che la Grecia non uscirà dalla zona euro fino a novembre. Non prevedo alcun sconvolgimento fin dopo novembre. Attualmente ognuno pensa ai propri interessi, sul fronte dei conti pubblici o come la Cina concentrata su questioni più strutturali come il cambio di leadership. Gli europei invece vogliono evitare di staccare la spina alla Grecia fino al prossimo anno. Inoltre, non ci sarà un conflitto militare contro l'Iran fin dopo le elezioni. Ma sono preoccupato per la tempesta perfetta in cui si troverà la zona euro il prossimo anno. Inoltre, gli Stati Uniti potrebbero scivolare in recessione sulla scia di un aumento delle tasse e tagli alla spesa. Il prossimo anno, poi, se la Cina non attua le riforme necessarie, la sua economia potrebbe rallentare bruscamente. Già oggi i mercati emergenti sono in netta frenata e non solo la Cina, ma tutti i BRICS. Inoltre, se dopo le elezioni americane non si riesce a evitare che l'Iran si doti di armamenti, allora si potrebbe arrivare allo scontro. Il prossimo anno, quindi, potrebbe essere difficile risolvere questi problemi e potremmo assistere alla tempesta perfetta. It can become too big to kick it down, then we have a global perfect storm. Vabbè, c'è un ascoltatore che dice che sta guidando addirittura senza mani, grazie a Rubini, mi raccomando. Non vogliamo avere nessuno sulla coscienza. L'asta dei titoli di Stato tedeschi a 2 anni per la prima volta, un'altra volta, rendimento negativo, ossia si prestano soldi alla Germania e si accetta di averne indietro meno di quanto si prestino, perché tale è il fly to quality, come dicono quelli che hanno studiato, la fuga verso la qualità, l'affidabilità, che si preferisce perdere qualcosa pur di prestare i soldi alla Germania e non ad altri paesi. Buona comunque l'asta dei titoli di Stato in Portogallo, 2 miliardi di titoli di Stato, i tassi sono scesi al 3,5% dal 3,83% dello scorso 6 giugno, lo spread nostro invece non si muove, è a 482 punti di differenza con la Germania, quello della Spagna a 566, e di questo ha parlato, ma lo ascolteremo tra un attimo, anche il neo ministro dell'economia Vittorio Grilli, che ha detto comunque noi andiamo avanti sulla nostra strada. Di Fiat hanno parlato anche i nostri GR, la crisi del mercato dell'auto bloccherà lo stabilimento di Pomigliano dal 20 al 31 agosto, in cassa integrazione ordinaria 2150 lavoratori, In Italia il mercato dell'auto è tornato sui livelli del 1979 e dice la Fiat sta penalizzando Fiat e soprattutto il segmento delle City Car, dove con Panda e 500 detiene il 60% della quota. Allora, di Vaticano parleremo anche della regione Sicilia. Adesso arriviamo invece all'inchiesta del procuratore di Milano sulle banche d'affari che hanno venduto i derivati al comune di Milano e anche l'inchiesta della procura di Trani. Faccio notare una cosa: quando dicemmo che indagava la procura di Trani, molti si misero a ridere, a sorridere, ma come, la procura di Trani contro Standard & Poor's, Moody's? Oh, però intanto il lavoro del PM sta scoperchiando dei vasi che nelle grandi procure anglosassone ancora non abbiamo visto nessuna inchiesta contro Standard & Poor's, partire da Washington, New York o altri. No, lo dico per non avere sempre questo complesso un po' provinciale di inferiorità nei confronti del mondo anglosassone. Abbiamo un paio di notizie su cos'è questa crisi. Oggi, diciamo, non riguardano la regione Sicilia, ma la regione Puglia. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. In realtà non proprio la regione Puglia, ma due casi che riguardano il comune di Taranto. La Guardia di Finanza ha notificato l'avviso di garanzia a 45 dipendenti del comune di Taranto, accusati di truffa aggravata e false attestazioni in relazione ai molteplici episodi di assenteismo. Un dirigente e 44 impiegati timbravano i badge personali di servizio anche di persone non presenti negli uffici, notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Le persone a cui loro passavano il badge si recavano al lavoro successivamente o risultavano aver timbrato in uscita in un orario successivo al loro effettivo allontanamento. Nel frattempo, il commerciante di Martina Franca, sempre in provincia di Taranto, Martino Scialpi, ha fatto causa al Ministero dell'Economia. Pensate un po', lui vinse al Totocalcio il primo novembre 1981 più di 1 miliardo di lire. Non ha mai incassato la vittoria perché mancava la matrice della sua schedina. C'è una sentenza definitiva del Tribunale di Roma che ha sancito che la schedina da lui prodotta è autentica, però cosa succede? La ricevitoria in cui fu effettuata la giocata era abusiva e lui dice è il CONI che deve corrispondere alla vincita. Insomma, una vicenda complicatissima. Ha notificato tramite il suo legale una diffida ad adempiere entro 30 giorni al pagamento di 9 milioni di euro al Ministero dell'Economia. Attendiamo notizie dal Ministero dell'Economia. Invece il Ministro all'Economia, Vittorio Grilli, oggi ha parlato e ha parlato di tutto, a partire dal quanto è l'onere italiano nel fondo Salva Stati, il fondo, diciamo, europeo, che deve essere anche lo scudo dovrebbe funzionare anche come scudo anti-spread. Lo dico perché spesso si legge i paesi del nord, la Germania, pagheranno i costi di questa crisi. No, l'Italia è il terzo contribuente di questo fondo, come ha spiegato bene Grilli nel ricordare le quote che ogni paese dà a questo fondo. Il capitale potenzialmente conferito al meccanismo europeo di stabilità è di 700 miliardi di euro, di cui 80 di capitale versato e 620 di capitale, tra virgolette, a chiamata. L'Italia in questo meccanismo ha il 17,9% delle azioni ed è il terzo sottoscrittore dopo la Germania e la Francia. Lo sforzo finanziario che l'Italia dovrà fare è perciò pari, per gli 80 miliardi di paid in, a 14,33 miliardi di euro da versare entro il 2014. Con le seguenti scadenze: 5,73 miliardi nel 2012, 2,87 nel 2013 e 14. Quindi smettiamola di dire che sono i paesi del centro-nord Europa che ci salvano. L'Italia contribuisce con una quota importantissima, quasi il 18%, a questo fondo Salva Stati, fondo anti-spread. Ok, oggi alcuni scrivono: la trovo particolarmente nazionalista. No, mi piace mettere i puntini sulle i. critichiamo la gestione della regione Sicilia e di altre regioni italiane dei nostri parlamentari, però lezioni da chi non le può dare non le voglio ricevere. E quindi non le vorrei ricevere da Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e Depfa Bank che il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, al processo sulla truffa sui derivati del Comune di Milano, ha chiesto di condannare a 1,5 milioni di euro ciascuna, oltre a imporre il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e la confisca di 72 milioni di euro. Dice Robledo, c'è stata un'aggressione alla comunità per l'opacità dell'operazione da parte delle banche che hanno raggirato il Comune di Milano. Il Comune non ha mai fatto, non ha fatto una cosa folle, ma si è fatto irretire, si è fatto raggirare, si è fatto prendere in giro, illudere. In questo paese ci si affida solo alle banche, continua Robledo, per l'operazione degli enti pubblici legati ai derivati, e questa è una situazione anomala dell'Italia. Continua Robledo, in tutta Italia ci sono oltre 500 operazioni di enti locali che hanno utilizzato i derivati, ma non c'è un solo ente che abbia nominato un consulente esterno. Tutti si sono fidati dell'analisi delle banche, cioè di chi ti vendeva la roba. La roba. Che è un po' come chiedere al pusher com'è, no? Cosa vuoi che ti dica? O chiedere all'oste com'è il vino. E aggiunge Robledo, il valore della trasparenza è fondamentale. UBS replica, dimostreremo che non ci sono basi per condanna. Ma insomma, oggi di questo capitalismo anglosassone, poi ci arriviamo, parla sul Sole 24 Ore, scrive sul Sole 24 Ore il professor Donato Masciandaro, che insegna economia della regolamentazione finanziaria all'Università Bocconi di Milano ed è editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera a lei. Lei oggi scrive alcuni passaggi importanti che riguardano la vicenda LIBOR, la vicenda diciamo che ha visto travolgere da un lato la Barclays, c'è anche Deutsche Bank, c'è l'ipotesi che JP Morgan sia coinvolto, quindi il fatto che alcune banche che devono decidere questo tasso si fossero messe d'accordo, nel caso di Barclays l'avessero alzato in maniera artificiosa. Vorrei intanto un commento sull'inchiesta specifica che riguarda la vicenda milanese sollevata da Robledo e poi veniamo anche al capitalismo anglosassone. Prego. Il momento è che quando le corti intervengono, questo è già un fallimento del mercato, nel senso che il mercato fisiologicamente deve avere una sua disciplina, deve avere una disciplina imposta dalle autorità di settore. Se questo non avviene, le corti sono attive, beh, già questa è una sconfitta. Il secondo commento è l'augurio è sempre quello di una efficienza della giustizia stessa. È molto importante la presenza della Corte proprio per segnalare le eventuali anomalie. Sarebbe altrettanto fondamentale che le corti italiane fossero anche rapide. In questa maniera avremo un sistema efficace ed efficiente. Sì, però è importante, sono d'accordo con lei, è importante anche quanto sostiene il procuratore Robledo, cioè dice attenzione, la responsabilità del pusher, scusatemi su questo termine, ma non ho altri termini per parlare di prodotti derivati venduti a un comune. Sapete perché è grave? Perché finché li vendi a una banca, a un soggetto finanziario, è una trattativa tra privati. Il comune gestisce il bene comune ed è gravissimo intossicare una cosa del genere. Chiudo la parentesi. Dice appunto Robledo, loro sono dei pusher, tanto me ne frega nulla dell'eventuale querela, ma è anche vero che il compratore non ha chiesto a nessuno come fosse questa roba, e cioè non c'è mai stata una consulenza esterna, ci si è affidati direttamente a chi ti vendeva questa cosa. Ora non vorrei che sotto sotto ci fosse stato anche tra virgolette un accordo, una comodità, un po' di rapporti, non è un po' strano? Se posso intervenire, quando succede solo in un comune possiamo fare tante ipotesi. Quando invece, come lei giustamente sottolineava, vediamo che è sistematico, cioè che comuni sistematicamente ignoranti, nel senso letterale del termine, di certe materie, si rivolgevano sistematicamente agli intermediari senza avere consulenti terzi, allora ci dobbiamo chiedere ma come mai c'è questo comportamento di fatto temerario da parte di comuni italiani di tutte le dimensioni, di tutta la distribuzione geografica. Beh, forse perché si crede che si è immuni da colpe, immuni da sanzioni. Cioè, io credo che in fondo c'è un problema generale di capire quanto chi gestisce la cosa pubblica si sente responsabile anche degli eventuali danni. Se vedo un fenomeno sistematico, la mia paura è che siano proprio disegnate male le regole nei comuni italiani. Sì, dico, quanto chi gestisce la cosa pubblica si sente responsabile? Beh, se guardiamo la Sicilia la risposta è zero. Però lei ha ragione nel dire, siccome lo stesso Robledo dice che ci sono 500 operazioni con gli enti locali aperte, c'è 500 casi di enti locali che hanno utilizzato i derivati che gli hanno proposto le banche, il fatto che nessuno abbia avuto l'idea di chiedere, non so, date un parere terzo, vuol dire che sono completamente deresponsabilizzati sulle conseguenze. E questo, se vogliamo, è ancora più grave, perché sei tu che devi gestire la cosa pubblica e perché, come scrivono ascoltatori, i soldi non sono loro. E dopo il metro, la pubblicità, professor Masciandaro, vorrei capire invece che cosa l'ha sorpresa del modo in cui la stampa anglosassone, sempre così puntigliosa con noi, ma anche la politica anglosassone, americana in questo caso, ha detto o non detto rispetto allo scandalo che si è aperto con Barclays, ma che rischia di coinvolgere tutte le più grandi banche del mondo anglosassone. E l'accusa sotto traccia di un cartello sul libro di un valore di questo tasso di interesse che viene modificato artatamente. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ospite il professor Donato Masciandaro. Allora, professore, al di là della vicenda del PM milanese Robledo, che appunto ha chiesto condanne anche pecuniarie per queste quattro banche accusate di avere raggirato, illuso, irretito il Comune di Milano su quello che fosse il reale funzionamento dei prodotti derivati, e al di là della sua riflessione che condivido, se tutti i comuni che li hanno comprati non hanno mai chiesto un consulente esterno, a un consulente esterno, una valutazione, forse c'è un senso di impunità, di irresponsabilità. Andiamo avanti con invece quello che ha detto ieri Geithner, che ha detto: attenzione, lo scandalo dell'IBOR, cioè la manipolazione del tasso di interesse che ha travolto la sistematica alterazione del tasso LIBOR, di cui hanno conoscenza sia la Banca d'Inghilterra che la Federal Reserve, questo lo ipotizzo io, che ha travolto Barclays, rischia di minare l'economia. Vabbè, lei però oggi scrive una cosa un po' diversa. Dice, insomma, ma guardate un po' come la stampa americana anglosassone, la politica, ha reagito a questo scandalo. Immaginiamo se fosse successo in Italia. Cos'è che l'ha sorpresa, professor Masciandaro? Beh, ho provato a fare un'ipotesi. In Italia tutte le banche danno delle informazioni per i tassi antiusura. Allora, ipotizziamo che un gruppo di banche italiane, anzi le maggiori banche, colludono, danno informazioni false alla Banca d'Italia. E in più scopriamo che c'è l'ipotesi che la Banca d'Italia fosse a conoscenza di tutto per almeno 2-3 anni. Cosa succederebbe? Probabilmente l'apocalisse, e forse aggiungiamo anche giustamente l'apocalisse. Io confronto l'apocalisse con il niente e mi sono chiesto stamani, forse ci sarà una via di mezzo, come mai questa sordina su un episodio che sembra la punta di un iceberg? Ancora non abbiamo credo compreso tutte le caratteristiche, e forse dovrebbe essere nell'interesse di tutti capire bene che cosa davvero è successo, però il mondo anglosassone mi sembra lento, ha messo su un suo rituale, quelle delle commissioni, delle audizioni, che è però un rituale che non è detto che produca risultati, basta vedere quell'aborto della legge di riforma della regolamentazione finanziaria. Quindi mi ha sorpreso molto vedere anche istituzioni sempre col ditino, sempre pronto a ricordare ai paesi latini i problemi, sono silenti. Dov'è il Fondo Monetario? Dov'è il Financial Stability Forum? Dov'è la Banca dei Regolamenti Internazionali? Dov'è il direttore del Fondo Monetario, che finché era un civil servant francese non aveva nulla da dire sulle banche francesi e europee, e il giorno dopo che diventa direttore del fondo improvvisamente le banche europee non vanno più bene? Ecco, ho queste curiosità. Ma guardi, io penso che se fosse successo in Italia che le più grandi si fossero messe d'accordo, una sicuramente per alzarli in maniera artificiosa, ma l'altra, e faccio notare una cosa, il tasso LIBOR è quello che in Italia per esempio determinerebbe il tasso di usura, per cui se tu più lo alzi, più alzi anche l'eventuale tasso, la soglia del tasso di usura, non è uno scherzetto, eh. Però se fosse successo in Italia e ci fosse l'ipotesi che la Banca d'Italia sapesse tutto, perché Timothy Geithner ha detto come ministro dell'economia, io ho misi in guardia nel 2008, bravo Timothy, ma che hai fatto nel frattempo? Se ci fosse questo in Italia, il Wall Street Journal, il Financial Times avrebbero scritto l'Italia, la corruzione, le commissioni, i salotti, il solito paese, no, di ladri, corrotti, non che non lo siamo anche, Però, insomma, guardi anche in casa. Mentre mi sembra che tutto sia finito sulle pagine interne dei giornali anglosassoni, molto, molto. Ma così come non si vede ancora uno straccio di legge in America, nonostante le promesse, che separi, tornando al Glass-Steagall Act, le banche d'affari dalle banche commerciali. Così quello che raccogli dai risparmiatori non lo può investire in operazioni sui derivati speculative. Investi i soldi dei tuoi azionisti, non dei tuoi risparmiatori. E ci perdono loro, non i tuoi risparmiatori. Silenzio totale. Barack Obama ormai non c'è più la forza, secondo me, per farla sta riforma. Timothy Geithner continua a pensare che, come tutti, tenga famiglia e tornerà a lavorare a Wall Street quando finirà il suo mandato da ministro dell'economia. Perché possiamo aggiungere che se vincono i repubblicani non potrà che andare a peggio. Non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio. I repubblicani non toccheranno mai Wall Street e purtroppo non hanno toccato neanche i democratici. Andiamo avanti con l'ultima domanda che ho per lei, e cioè la Procura di Trani. Ora devo fare una premessa, lei è consulente della Procura di Trani, quindi non le posso chiedere niente per quello che riguarda le vicende che hanno coinvolto le agenzie di rating, perché la Procura di Trani sta indagando su questo. Grazie. Faccio però presente che, come ha avuto in esclusiva il TG5 ieri, l'allora governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, ascoltato dal procuratore di Trani, affermò: conosco il fenomeno. Vi è un conflitto tra analisti e uffici che producono il rating, il voto. Va rammentato che le società che proponevano i prodotti strutturati soggetti a rating erano società da cui dipendevano quelle stesse agenzie. E lo afferma Draghi a gennaio del 2011. Cioè, gli azionisti di Standard & Poor's e Moody's a loro volta vendono prodotti che le agenzie di rating devono valutare. Pazzesco, eh? E Draghi poi ha aggiunto altre cose, il sistema italiano è robusto, ma insomma la volatilità è un danno che deriva dalle valutazioni, la volatilità nel prezzo dei titoli è un danno che deriva dalle valutazioni anche delle agenzie di rating. Faccio ascoltare di nuovo, perché ci sta a pennello, quel famoso passaggio di un film che invito tutti quanti a guardare, Inside Job. Charles Ferguson ha vinto l'Oscar come miglior documentario nel 2011, dedicato alle agenzie di rating. Le tre agenzie di rating Moody's, Standard & Poor's e Fitch guadagnarono miliardi dando il massimo dei voti a titoli rischiosi. Moody's, la più grande agenzia di rating, quadruplicò i suoi profitti tra il 2002 e il 2007. La Moody's e la Standard & Poor's venivano ricompensate sulle basi dei rating che davano, e più AAA davano, più alti erano i guadagni per la società. Immaginate di andare al New York Times e di dire: se mi scrivete un articolo positivo vi pago $500,000, se non lo fate non vi do niente. Le agenzie di rating avrebbero potuto interrompere la festa e dire: ci dispiace, dovremo alzare i nostri standard, e tagliare immediatamente il flusso di finanziamenti verso mutuatari rischiosi. Gli strumenti valutati con la AAA passarono da una manciata a migliaia e migliaia. Centinaia di miliardi di dollari venivano valutati... Ogni anno? Ogni anno, sì. Ho testimoniato di fronte al Congresso e alla Camera dei rappresentanti sul problema delle agenzie di rating. Ed entrambe le volte i loro avvocati hanno tirato in ballo il primo emendamento, rivendicando il fatto che il loro giudizio di AAA era solo la loro opinione e che le persone non dovevano basarsi solo su di essa. I rating esprimono un'opinione. I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni. Opinioni non sono altro che opinioni. Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni. Opinioni, tutto è opinione, ma opinioni pagate miliardi, opinioni che abbattono i titoli, opinioni che cambiano i tassi di interesse che un paese deve offrire per avere finanziatori sul suo debito, opinioni che pesano, opinioni che sono, secondo alcuni, il prolungamento del potere americano, visto che le due agenzie di rating sono americani, i soci sono americani, sulla finanza mondiale. Allora, professor Masciandaro, saranno anche opinioni, ma non è che siamo stati anche noi a farci del male dando troppa importanza a questa agenzia di rating? Cioè, la Cina si è creata la sua, perché l'Europa non riesce a creare una sua agenzia indipendente? Ci mettiamo dentro tantissimi tedeschi duri e cattivi, anche olandesi, anche finlandesi, ma almeno non siamo più dipendenti, diciamo, dalla valutazione anglosassone americana, che è molto compiacente sui suoi errori, molto severa con i nostri. Sì, se dovessi mettere qualcuno, visto che siamo in argomento, sul banco degli imputati, io sicuramente non metterei le agenzie di rating come gravità di colpa. La colpa più grossa ce l'ha il legislatore europeo, la colpa più grossa ce l'ha il legislatore americano, perché la formula sarebbe semplicissima: tornare alle origini, che significa due cose. Le agenzie di rating erano delle società private il cui giudizio non aveva alcun peso nella regolamentazione dei mercati. Seconda caratteristica, i giudizi delle agenzie non erano pagati dagli emittenti, erano pagati dagli investitori. Allora basterebbero queste due riforme. Bravo. Per smantellare tutto. Invece che cosa sta facendo l'Europa? L'Europa sta creando un sistema che vuol certificare la qualità del giudizio, delle opinioni, delle agenzie di rating. Quindi che cosa sta facendo? Sta facendo una prova diabolica a vantaggio di chi? A vantaggio di quelle burocrazie. Io invito qualche ascoltatore particolare che si voglia far male a vedere che cosa sta succedendo in Europa per la regolamentazione. Stanno creando delle sovrastrutture che dovranno poi valutare la qualità dei giudizi delle agenzie, quindi stanno creando grande felicità tra le burocrazie, sì, dei, certo, controlli, senza però smantellare il potere improprio che, anzi, abbiamo dato a questi. Sì, perché noi siamo stati a Daglio, spiego a tutti quelli che sono in ascolto, se tu dici che per legge la qualità dell'investimento deve essere proporzionata a quello che dice l'agenzia di rating, che è un socio privato, è chiaro che tu dai uno strapotere a queste agenzie, perché qualunque tipo di investimento deve avere, tra virgolette, la certificazione di queste agenzie. Allora, A, le fai pagare non da chi deve essere giudicato, ma da chi deve investire su di te, e cambia tutto, abbiate pazienza, perché è chiaro che se deve essere giudicato ti pago tanto, tu magari sei un po' più buono con me. Ma B, levi questo obbligo, questo potere unico, troviamo un organismo europeo in grado, tanto non è che chissà quali geni della finanza vi siano in queste agenzie, normalissimi analisti, ecco, abbiamo le capacità in Europa per creare una nostra agenzia che è molto indipendente, più indipendente di quelle americane, senza fondi comuni di investimento dentro, senza gli speculatori dentro, che dica, secondo me quel titolo vale questo, quella banca vale questo come affidabilità, quello Stato ha questa affidabilità, e facciamo come ha fatto la Cina, no? Sì, perché è paradossale, proprio per, come dicevo, provare a spiegare nella maniera più semplice. Io insegno, è come se gli studenti mi pagassero direttamente, sì, appunto, per darti voti, ma non solo. Chissà che voti darebbe lei. Però. Non solo, ma gli studenti sanno che la probabilità di trovare lavoro sarà automaticamente legata al mio voto. Allora si capisce bene, certo, come il, certo, sistema sia assurdo, però intanto rimane così. Beh, c'è anche una lobby della City britannica, c'è anche una lobby di queste agenzie, c'è anche una finanza a Francoforte, no, non è che proprio sia scomparsa la grande capacità della lobby finanziaria. Io sa che ogni tanto faccio come Andreotti, no? Penso male, faccio peccato, ma spero di azzeccarci. Professore, grazie. Io prima ho detto che molti hanno ironizzato sulla procura di Trani contro Standard & Poor's, però anche qui Davide contro Golia, ma le cose che stanno emergendo alla procura di Trani non le abbiamo ancora viste alle procure americane. Poi so che su questo non può commentare, non la faccio commentare, la ringrazio. Di nuovo in diretta. Allora, la borsa, poi il Vaticano, o meglio lo IOR, ma anche il Vaticano. C'è chi dice: lei non può confondere lo IOR col Vaticano. Vabbè, dai. E così come non confonderebbe l'America con la Federal Reserve. A parte che non è vero, la Federal Reserve è espressione dell'America. E poi, insomma, stiamo parlando di due stati un po' diversi, eh? Borsa. Positive le borse europee, meglio Francoforte e Parigi, più 1,80 Parigi, più 1,60 Francoforte, più 1% Londra, più 0,65 l'America in questo momento, Milano più 0,43%, due però titoli crescono su tutti, ST Microelectronics più 6,50% e Mediaset più 4,60%. Ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ciao. Più ST e Mediaset. Buonasera a tutti. ST è, come dicevi, il migliore, più 6,5%, cavalca un risultato migliore delle aspettative ed è quello sulla joint venture che ha in essere con Ericsson, che rappresenta poi al tempo stesso anche il tallone d'Achille del gruppo dei chip. Quindi non stupisce il fatto che nel secondo trimestre abbia chiuso in perdita questa joint venture, ma le perdite operative sono calate di 62 milioni rispetto all'anno scorso, un risultato migliore rispetto alle attese, dunque il titolo è immediatamente balzato in borsa. Per quanto riguarda Mediaset invece, come noto, la società, è una notizia anticipata ieri dall'agenzia Radio Core, ha incrementato il piano triennale di risparmi da 250 milioni a 400 milioni, questo ovviamente è musica per gli operatori di borsa, anche perché poi questo provvedimento si rifletterà su un prevedibile incremento degli utili, quindi il titolo è immediatamente balzato. Bene anche Exor oggi, nonostante dice l'annuncio, il gruppo Fiat è andato male dopo i dati sulle matricolazioni, ha perso lo 0,80%, però Exor, che è la finanziaria di controllo di Fiat e Fiat Industrial, ha fatto più 2,40. Eh sì, un andamento piuttosto divergente oggi, perché come dicevi tu, Fiat invece ha pagato dazio, ha perso quasi l'1% dopo che a giugno c'è stato l'ennesimo crollo sul mercato, meno 16,7% di auto immatricolate. Tra chi invece ha perso oggi, Snam meno 4,70%, e poi si sta perdendo il cosiddetto appeal speculativo su Impregilo, ormai la battaglia l'ha vinta Salini, presidente Claudio Costamagna, più meno 1,74% Impregilo, Snam meno 4,76%. Eh sì, adesso sono davvero in pochi a credere in una controffensiva dei Gavio che si potrebbe concretizzare soltanto probabilmente con un'offerta pubblica d'acquisto, e quindi il titolo si sta afflosciando. Per quanto riguarda Snam, è chiaro, ieri sia stato questo collocamento del 5% del capitale da parte di Eni, e quindi, come avviene in questi casi, il titolo deve essere venduto lievemente a sconto a investitori istituzionali, quindi poi il mercato ovviamente si adegua. Teniamo conto di una cosa: Snam di fatto è stata privatizzata attraverso la cessione del c'è stata la separazione proprietaria da Eni, quindi il 30% di Eni che era in capo a Eni è stato dato a CDP, a Eni fa capo un altro 15% che verrà venduto sul mercato, quindi non stupirà se nei prossimi mesi il titolo potrebbe calare ancora. Oggi è negativa, oltre a Monte dei Paschi che perde il 2,80, Mediolanum l'1,80, anche A2A meno 1,80 anch'essa, nonostante abbia annunciato un taglio di stipendi e costi di gestione, no? Sì, diciamo che nel 2011 tra le utility ex municipalizzate A2A era quella la cui governance costava di più di 4 milioni di euro, diciamo con il nuovo corso anche i comuni azionisti hanno deciso di dare una sforbiciata, diciamo più che ben voluta, insomma, gli stipendi, ma nonostante questo evidentemente il titolo paga ancora le incertezze sul rilancio del gruppo. Ancora migliori e peggiori, dunque Monriff più 9,60, TAS più 9,30, media se te l'abbiamo detto, peggiori Fondiaria Assai sulle ordinarie, meno 43,90%, è iniziato l'aumento di capitale, Fondiaria Assai. Qui continua l'altalena, un giorno in rialzo, un altro in ribasso, bisogna anche dare uno sguardo all'andamento dei diritti, certo è che un comune risparmiatore di fronte a questa oscillazione di borsa resta un attimino, diciamo, disorientato a dir poco. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo esserci occupati dell'inchiesta di PM di Milano su 4 banche d'affari per aver venduto strumenti derivati al Comune di Milano. 1,5 milioni a ogni singola banca coinvolta, ha chiesto PM Robledo, e le banche si chiamano nel caso specifico, per quello che riguarda le richieste del procuratore aggiunto, appunto Alfredo Robledo, Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e Defa Bank, sostenendo che hanno irretito e raggirato il Comune di Milano sull'effettiva rischiosità e funzionamento di questi strumenti. Dopo questo, dopo aver affrontato anche il tema delle agenzie di rating e del scandalo LIBOR negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e la borsa, arriviamo adesso all'altra notizia del giorno, poi passeremo al governatore Lombardo. Mi riferisco al primo rapporto Moneyval con cui il Consiglio Europeo giudica, il Consiglio d'Europa giudica i sistemi antiriciclaggio, in questo caso del Vaticano, ed è un giudizio in chiaroscuro. Su 16 questioni poste, 16 raccomandazioni poste al Vaticano dal Consiglio d'Europa, in realtà è il gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio che le ha poste, di queste 16 raccomandazioni il Vaticano ha adempiuto a 9, mentre ne restano fuori 7. La Santa Sede è stata giudicata non conforme o parzialmente conforme sul 51% dei casi, conforme o largamente conforme negli altri 49%, per cui c'è un giudizio, ripeto, in chiaroscuro. Sapete che il Vaticano è finito nella cosiddetta lista grigia. C'è un giudizio anche sullo York, la banca del Vaticano, che dispone di un patrimonio di 6 miliardi di euro, risponde direttamente al Papa, ha conti correnti per 33.000 depositari, la metà dei quali sono uomini di chiesa, e l'80% del patrimonio dello IOR è riconducibile a fondazioni, ordini religiosi, conferenze episcopali, collegi e monasteri sparsi in mezzo mondo. Carlo Marroni del Sole 24 Ore, buonasera Carlo. Buonasera a voi, buonasera. Dicevo, giudizio in chiaroscuro, perché dice che alcune un voto positivo su 9 delle raccomandazioni, ne restano fuori alcune e su queste chiaramente ci concentriamo. Le richieste che arrivano dal Consiglio d'Europa al Vaticano. Sì, allora, giustamente dicevi, sono tante, 45 le raccomandazioni, ma quelle centrali sono 16. Di queste 16 il Vaticano appunto alcune le ha date buone, anche per esempio ha introdotto dei reati di autoriciclaggio, altre cose che non ci sono per esempio in molti stati. Quelle che invece non funzionano ancora, non sono conformi, sono per esempio la customer due diligence, cioè il controllo preventivo dei clienti, di coloro i quali hanno i conti, oppure le segnalazioni delle operazioni sospette che hanno delle procedure considerate ancora non efficaci, vari tipi di regolamentazioni sulle medesime operazioni, sulla supervisione, il monitoraggio e forme soprattutto di cooperazione con gli altri stati. Queste sono considerate, o le altre autorità diciamo internazionali, considerate ancora non a livello, diciamo, uno standard considerato adeguato. Sì, tra l'altro il Consiglio d'Europa dice raccomandiamo alla Santa Sede di prendere in seria considerazione l'introduzione di disposizioni di leggi che individuino chi ha diritto ad avere un conto corrente allo IOR oppure no, perché abbiamo detto prima, su 33.000 conti correnti solo 17.000 sono intestati a uomini di chiesa, che chiaramente è la loro banca, ci mancherebbe, no? E quindi vorrebbero capire perché alcuni soggetti che non sono uomini di chiesa possono avere conti correnti sullo IOR, no? Allora, innanzitutto lo IOR non è l'unica questione, no, di tutta questa vicenda. No, questo è importante perché lo IOR ha tanti ministeri di spesa o comunque che maneggiano soldi, tanti, almeno 4-5, tra cui Propaganda Fide, per esempio, che in Italia è nota anche alle cronache, però è anche un ente, diciamo, di carattere internazionale. Lo IOR è la banca, intesa come banca, quindi dove si hanno i depositi, più che una banca è una fiduciaria, perché poi non presta soldi, quindi diciamo è una banca solo di depositi. Ci deve essere maggiore attenzione per quanto riguarda appunto le procedure di monitoraggio di chi ha diritto a mettere i soldi. Lo IOR, per la verità, alcuni giornalisti hanno incontrato, tra cui il sottoscritto, il direttore dello IOR, e ha detto che tutte le loro procedure ormai sono, come dire, in chiaro, cioè loro dicono, il Vaticano, sono tutte procedure che assicurano la massima trasparenza. Tanto per fare un esempio, una suora non può andare allo IOR ad aprire il conto, perché lo IOR poi chiama il suo ordine religioso e gli chiede perché la suora apre il conto, e se è funzionale alle esigenze di quell'ordine religioso allora va bene, ma la suora a titolo personale non può farlo. Questo è quello che assicura lo IOR. Quindi diciamo che alcune procedure probabilmente sono ancora in corso di, come dire, di definizione. Certo. E infatti il Consiglio d'Europa dice fatele, finitele, e oggi il prelato Monsignor Balestrero, che è, diciamo, l'uomo forte della curia che sta curando questa pratica, ha detto lo faremo. Quindi è evidente che la strada è, loro stessi, il Vaticano, riconoscono che non hanno fatto tutto. C'è da dire che 20 mesi fa tutto questo non c'era niente, tutto questo, per cui qualche cosa è stato fatto. Ora non possiamo solo dire lo scuro è questo, il chiaro è che comunque è stato fatto un lavoro che per, diciamo così, che è iniziato un percorso, ecco, ma in maniera anche oggettivamente sì. Beh, poi è ovvio che cioè, tutto è subito e forse era anche difficile pensarlo, però diciamo, è naturale. Tutto questo poi si riflette, ci sono anche degli scontri interni al Vaticano. Beh, ce ne siamo accorti in queste settimane, con la revoca del mandato Goth tedeschi. Siamo arrivati, diciamo, dicono che questo non c'entra, però sai, sempre bene riportare tutte le fonti. Alcuni dicono che c'entra, altri dicono che non c'entra. Sta di fatto che lo IOR il presidente è stato cacciato in una giornata con modalità che non si erano viste, mai viste, nello scandalo Lehman Brothers. Sì, appunto, ma mai viste nel mondo della finanza, va detto. Cioè, ecco, mai visto. Sì, vabbè. Detto ciò, il Consiglio europeo chiede anche al Vaticano di rafforzare il regime di vigilanza antiriciclaggio, e per quello che riguarda altre raccomandazioni, chiede, e mi sembra molto importante questo, Carlo, che vi sia un soggetto supervisore indipendente per lo IOR, cioè dice, insomma, occorre che ci sia qualcuno. Le banche italiane hanno la Banca d'Italia, no? Ecco, lì vorrebbero che ci fosse un soggetto che va a vigilare, ma non che non sia lo IOR stesso che vigila su se stesso. Così. Infatti, la risposta è stata anzitutto che il Vaticano ha detto oggi, in effetti è un suggerimento, non è una richiesta, diciamo così, se in mancanza della quale non arriverebbe un bollino verde, diciamo, è un suggerimento. In effetti il documento lo tratta. Naturalmente lo stesso Vaticano dice, un soggetto in qualche modo indipendente c'è, naturalmente viene un po' da sorridere, dire che c'è la commissione dei cardinali che controlla lo IOR stesso, che invece è poi gestito da laici, dipendenti del Vaticano, ma laici. Naturalmente qui si tratta di capire quale potrebbe essere un soggetto indipendente. Su questo naturalmente il Vaticano non dico che frena, va oltre, dice che non se ne farà proprio di niente. Un soggetto indipendente poi sarebbe comunque un ente interno allo Stato Vaticano, come la Banca d'Italia è un soggetto interno allo Stato italiano. Quindi sarebbe comunque tutta la vicenda, per essere molto sintetici, è ruotato lo scontro intorno ai poteri di questa autorità, authority indipendente o presunta indipendente, creata dal Papa nel 2010, a fine 2010, i cui poteri sono stati qualche mese fa ridimensionati. Tutta la vicenda, anche quella di Goti tedeschi, invece che degli scontri, i cardinali, le giornalate, tutti i file pubblicati sui giornali, ruotavano, o presunto, intorno ai poteri di questo, certo, di questa autorità, che avrebbe avuto il potere di andare a mettere il naso ovunque. E in qualche modo questi poteri sono stati ridimensionati. È vero. E questo il Consiglio d'Europa l'ha criticato. E dice, no, dovete avere anche voi un'autorità di vigilanza. Grazie a Carlo Marrone. C'è chi scrive... Ma Barisoni, perché si appassiona tanto alle vicende della banca di uno Stato estero? Non capisco il motivo per cui non fate altrettanto con altri Stati dell'Unione. A parte il fatto che il Vaticano non fa parte dell'Unione Europea. Due, ci siamo occupati di Barclays, di Deutsche Bank, di Commerzbank, di Monte dei Paschi, ci occupiamo anche dello IOR. Tre, Stato estero. 18 minuti, ultima parte, allacciamo le cinture di sicurezza. Non abbiamo nulla di personale contro il governatore Lombardo, ma la difesa che ha fatto della sua gestione di una regione che ha 21 miliardi di debito consolidato, 5 miliardi e 300 milioni di debito solo per il 2011, incassa a 3 milioni di euro, e poi vi ricorderò anche i dipendenti che sono 20.000 contro i 7.000 che sono in Lombardia, più altri 20.000 tra dipendenti a contratto. Praticamente pensate che in Sicilia c'è un dirigente per ogni 8 dipendenti, nello Stato italiano ce n'è uno ogni 50. I forestali in Sicilia sono 28.500 contro 70.000 in tutta Italia, cioè quasi la metà, più di uno su tre tra i forestali è in Sicilia. Non penso che un terzo o quasi la metà delle foreste italiane siano in Sicilia. Pensate che la Sicilia ha più forestali dello stato canadese del British Columbia, che voglio dire è enormemente più grande. Poi British Columbia è pieno di boschi veramente. Comunque, Lombardo si è difeso, il bilancio della regione, e allora iniziamo a parlare della difesa del Raffaele Lombardo. Se avessimo una condizione di difficoltà e di criticità pari a quella dello Stato, a fronte di un PIL di 80 miliardi, dovremmo avere un debito di 96, cioè del 120% del nostro PIL. È come se a fronte di un bilancio di 27 si avesse un debito di 5, come si ha. E questo equivale a uno stipendio di uno di voi di 25-26 mila euro e un debito in banca di 5 mila euro. Se vogliamo fare un confronto con la condizione dello Stato italiano, questi sono i numeri. Le altre cose sono soltanto chiacchiere per nulla disinteressate. Lombardo, ma che sta dicendo? Lo Stato italiano ha un debito che ha anche perché presta i soldi e ripiana i buchi delle regioni. I 23 miliardi di euro che voi avete fatto di buco, non lei, Totò Cuffaro, tutta la gestione della regione Sicilia, secondo lei chi li ripiana? I 300 milioni di euro del buco del comune di Catania, chi li ha ripianati? Lo Stato italiano, cioè noi. Allora come fa a fare un paragone tra il buco di una regione che sa che poi viene ripianato dallo Stato e il debito di un paese che, come vediamo in questi mesi, se gli investitori esteri non vogliono, non ce lo ripiana nessuno? Ma cosa sta dicendo? Comunque, continuiamo, perché ce l'ha anche con gli pseudo-industriali. Qualche pseudo-industriale secondo cui, dice Lombardo, dovrei licenziare i dipendenti regionali. Pensa un po'. Non abbiamo assunto una sola persona, i 30.000 forestali o i 22.500 dipendenti degli enti locali. Noi, il mio è il primo governo che ha fatto una legge di blocco delle assunzioni, signori miei, e i 30.000, per ragioni fisiologiche e anagrafiche, sono diventati 26.000, e i 22.500 sono diventati 18.500. Se lor signori da Roma o qualche pseudo-industriale pretende che io licenzi questa gente o la ammazzi, vada al diavolo, vada a morire ammazzato chi che sia. Io non metto sulla strada questa gente. Non la metto, e se fossi presidente della regione non la metterei neppure l'anno prossimo. Non distruggo la vita di 50.000 persone in prospettiva di una macelleria sociale che purtroppo in Sicilia si prevede più grave che in altre regioni. Devo stare calmo adesso. Lombardo, presidente Lombardo, allora lei non li vuole licenziare e capisco benissimo il dramma di non licenziare, ma i 23 miliardi di buco chi li paga? Li fa pagare i siciliani? No, perché siete autonomi, autonomi in tutto. Allora, qui abbiamo una regione che in questi 15 anni ha assunto, ripeto, 7.000 dipendenti in Lombardia, tra precari e dipendenti sono quasi 40.000 in Sicilia, più i 28.000 forestali. E lei dice che questa è macelleria sociale. Va bene, assumiamo tutti i siciliani nella regione Sicilia, ma chi paga poi? Tanto lei lo sa che non pagano i siciliani, perché sennò le verrebbero sotto con i forconi se aumentasse l'IRPEF regionale comunale del 1000%. Sa che paghiamo noi, ci paga il resto del paese. Ma Lombardo, Lombardo, sentiamo anche chi è la vera causa, oltre ai pseudo-industriali, del buco della regione Sicilia. Immaginate un po' i giornali. Noi ci tuteleremo in sede penale e civile rispetto a quanti, come taluni giornali, hanno scritto fallimento della regione. Perché questo ci comporterà un danno, perché quando uno di noi si dice che fallisce e si presenta in banca per avere un prestito, certamente questo prestito o non gli viene concesso o gli costa il doppio, e noi la faremo pagare cara a questi giornali diffamatori che hanno peraltro preparato un clima, creato un clima che poi ha portato alle lettere e, per carità, alle giuste esigenze che il Presidente del Consiglio dello Stato italiano esprime e sulle quali noi ovviamente vogliamo esprimere ogni giusto e necessario riscontro nel confronto che avremo con lui, e gli chiediamo col Consiglio dei Ministri, nel corso del quale confronto o esposizione gli diremo le quattro riforme che abbiamo attuato e il lavoro immane che abbiamo fatto in questi quattro anni. Allora, siamo in fascia protetta e quindi, diciamo, io devo rispettare la fascia protetta. Io ho capito, però, secondo me ha ragione Lombardo. C'è un complotto di qualche pseudo-industriale, della stampa del nord, ma anche un po' di massoni e giudei li metterei insieme, perché limitarsi a questo quando il problema della Sicilia e di Palermo è uno e uno solo. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fanno nemici, famiglia contro famiglia. Mitico Benigni, ha ragione, il traffico è il problema della Sicilia. Allora, più sobrio Barisoni, sì, vabbè, sto più sobrio, però cosa volete che risponda a uno che dice tanto il debito ce l'ha anche lo Stato italiano, grazie, garantisce la regione Sicilia, poi lo Stato italiano non c'è nessuno che lo garantisce se non chi sottoscrive i bot e sappiamo come sono. Io dico un minimo di autocritica. No, ma hai gestito la Sicilia per 4 anni, va tutto bene, madama la chiesa. Nino Amadore, corrispondente del Sole 24 Ore da Palermo, buonasera Nino. Buonasera a te, buonasera a tutti. Sei in mezzo al traffico, è il vero problema di Palermo, e ho capito. Allora, era immaginabile che Lombardo si difendesse, però, no, un minimo di autocritica. Dove vuole arrivare il governatore che dovrebbe dimettersi, no, tra qualche giorno, con grande scorno e tristezza di tutti i miei ascoltatori? Prego. Ma guarda, a me è sembrato, io insomma ero lì, a me è sembrato più una risposta politica, un messaggio dato a chi politicamente probabilmente lui ritiene voglia non le sue dimissioni, ma che lui rimanga al suo posto, perché sembra paradossale. Come, cioè, lui teme che qualcuno gli chieda di restare? Pazzesco. No, lui è sicuro che qualcuno vuole farlo rimanere al suo posto. Qui il punto non è quello delle dimissioni, il punto vero della vicenda è che Lombardo rimanga o non rimanga al suo posto. È tutta qui la questione, che non è una questione di poco conto, è una questione politica centrale. Perché è centrale? Perché se Lombardo si dimette il 31 di luglio, a ottobre la Sicilia va al voto. Se la Sicilia va al voto diventa un test politico nazionale importante. Questo è quello che dicono loro. Anzi, lui in qualche occasione, lui ma anche i suoi ieri, ha detto qualcosa in più. Mi è stato chiesto di rimanere, di non dimettermi. Chi gliel'abbia chiesto non è dato sapere. Questa è un quadro, questa è la parte politica. Dunque, tutto quello di cui tu giustamente hai parlato prima, che hai riportato, le sue dichiarazioni, le notizie di stampa, avrebbero il fine di costringerlo a rimanere, magari commissariato, magari affiancato. Mentre lui se ne vuole andare. Ma lui è oggi... No, guarda, qui siamo al teatro dell'assurdo, cioè Lombardo ritiene che tutta questa polemica che si è aperta su una regione che perde 23 miliardi, ha un debito di 23 miliardi, a 3 milioni di euro in cassa e basta, sia il complotto per chi lo vuole obbligare a stare nella regione in cui lui è stato eletto a dirigere, perché così poi sarà commissariato e si evitano le elezioni a ottobre. E vabbè, io che cosa devo dire a questo punto? Devo dire semplicemente che mi piacerebbe che ci spiegasse anche alcune piccole curiosità che ci sono rimaste inespresse, perché ha assunto 30 camminatori per portare le pratiche da un posto all'altro, lui che dice di avere utilizzato in maniera svizzera e svedese i dipendenti della regione. Nino, io ti auguro in bocca al lupo, mi raccomando, attento al traffico, perché il vero problema, abbiamo capito che è quello, e noi siamo dei complottisti del nord. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, auguro anche buona serata a tutti coloro che sono in ascolto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 un po', vado a prendermi un Valium e poi domani di nuovo in diretta.